tempo per morire, c'è anche un tempo per guarire, c'è anche un tempo per gioire. C'è anche un tempo per amare.